as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e Rose. Oggi andiamo subito al dunque. Puntata dedicata al Festival della Letteratura della Working Class che si è svolto il 10, 11 e 12 aprile a Firenze alla GKN, quarta edizione. Siamo stati lì, ci eravamo già stati. Per tutti quelli che volessero risentire tutte le puntate dedicate alla vertenza della GKN, ricordo a tutti che c'è il podcast, la pagina Facebook Il Pane e Rose, trovate tutte le puntate e anche le puntate del passato. Come troverete questa puntata? Dopo un po', qualche settimana, non subito, la manderemo dopo che viene mandata in onda, dopo un po' entrerà nel podcast anche questa puntata. Festival della letteratura della working class, momento importante per tutti quelli che vogliono discutere di letteratura legata alla classe operaia, dice il titolo stesso. Noi siamo stati lì, abbiamo ascoltato una serie di interventi, ci sono stati tantissimi scrittori che hanno parlato, che hanno raccontato, che hanno presentato i loro libri. Sabato c'è stata anche la manifestazione a cui abbiamo partecipato. Prima manifestazione abbiamo intervistato Antonella Bundu, che sentiremo come è la prima che abbiamo intervistato. Ci ricordiamo Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa per le elezioni come candidata sindaca delle ultime elezioni comunali. Grande risultato per le forze che aveva. Ha partecipato insieme ai rappresentanti della GKN alla flottiglia per Cuba, Nuestra America Flottiglia, hanno portato aiuti a Cuba, sono tornati da poco, a fine di marzo sono tornati, ha portato medicinali e tante altre tipi di risorse, e ci racconterà una Cuba che spesso non troviamo nei social, non troviamo sui giornali, non troviamo in nessuna parte. L'avevamo seguita giorno per giorno quando lei era a Cuba attraverso i social, eravamo veramente contenti di averla, di incontrarla e di poterla intervistare, così ci ha raccontato, e mi raccomando seguitela anche sui social che è molto interessante come compagna, una grande compagna, ci ha raccontato la sua versione di Cuba, quella reale, quella che lei ha visto, quella militante insomma. Poi abbiamo intervistato per me un punto di riferimento, perché è un grande, Kike Ferrari, un compagno toschista, lui un operaio scrittore, lavora alla metropolitana di Buenos Aires, è un sindacalista, ma è anche un operaio, non è che fa il sindacalista, è proprio un operaio, e fa anche lo scrittore, ha scritto diversi libri molto interessanti, qui, insomma, e si capisce che lui è un grande marxista, un grande compagno. E poi ho intervistato Dario Salvetti, uno dei, diciamo, dei leader della GKN, della battaglia della GKN, e con lui abbiamo affrontato, ci ha spiegato un attimo questa quarta edizione del Festival della Letteratura della Working Class, e in più abbiamo parlato anche un po' di GKN, ascoltiamo come ultimo intervistato, e insomma diamo subito ai nostri ospiti e poi ci sentiamo per le brevi conclusioni, perché è veramente molto lunga la puntata. A dopo. Patria o muerte! Venceremo. Patria o muerte. Venceremo. Venceremo. No nos sorprende el cerco ni la amenaza. Viene lejos la mano que hoy nos señala. Desde el primer día supimos la verdad. No perdonan que un pueblo se atreva a mandar. Quieren rendirnos con hambre y bloqueo, con muerte, amenaza y mentiras. Pero los que acabarán rindiéndose son los yanquis, no los pueblos que resisten. No somos colonia, no somos patio, ni moneda de cambio. Somos un pueblo de pie, y eso es lo que más le duele. ¡Carajo! Patria o muerte, venceremos. No nos rendimos, no nos vendemos. Patria con bandera, discurso de Dios. Oro como fe, mentira como voz. Si defender la tierra es crimen para el imperio, entonces sí, somos culpables de soberanía y pueblo. Que lo escuche América, que lo entienda el mundo entero. No hay ley más alta que el derecho a no ser esclavo de nuevo. Manda muerte y ruina sobre los pueblos. Nosotros mandamos médicos. ¿Quién defiende de verdad a la humanidad? Si nuestra soberanía molesta al poderoso, es porque aprendimos a decir no. No queremos guerra, pero no pedimos permiso para existir. Y si para ser libre. Allora, ciao, siamo con Antonella Bundu, siamo qui al Festival della Working Class. Quarta edizione. Sì. Sei appena tornata da Cuba. Sì. Noi ti seguiamo in radio, tu dove vai? Sì, siamo stati a Cuba come delegazione proprio della SOMS Insorgiamo, qui della XCKN, proprio qui dove stiamo facendo questa intervista. Eravamo due solidali della SOMS, abbiamo portato, oltre ai medicinali che hanno portato un po' tutti del convoglio, abbiamo portato anche la prima cargo bike che è stata fatta dal gruppo cargo dell'XGKN. Niente. Allora, a Cuba sicuramente quello che ci arriva qui, o comunque quello che scrivono sia giornali che altro, è una visione, anche una narrazione distorta di quello che sta veramente succedendo. È vero che sono messi sicuramente male, quasi al collasso, per colpa, ribadiamo, di questa stretta che è stata fatta sull'embargo, però così come hanno fatto durante il tempo dei vaccini, che sono riusciti in un anno a fare una ricerca che normalmente ci mettono 10 anni, stanno andando verso la transizione ecologica. Dunque anche, per esempio, noi giravamo su quelli che sono una specie di triciclo aperto con pannelli solari, batteria, e stanno andando tutto in questa direzione. Chiaramente ci vorrà tempo, dunque per ora sono messi male. Non c'erano quelli, la gente non era tutta chiusa in casa, non c'erano tutte queste proteste, noi non abbiamo visto nessuna, però quelle che dicevano, proprio mentre eravamo lì, ci arrivavano notizie dall'Italia, come state, abbiamo saputo, c'è stata un'esplosione, assolutamente no. Dunque è importante anche questo fatto di essere andato lì, perché quello che loro ci hanno chiesto anche è di ritornare. Abbiamo fatto tantissime visite diversi, dal centro per l'educazione sessuale al centro Fidel Castro, ai comitati di difesa della rivoluzione, agli ospedali, le scuole. Abbiamo fatto tantissime visite, abbiamo anche fatto dei giri da soli, e quello che ci stavano dicendo: tornate e parlatene. Certo. Ed è quello che stiamo facendo, è quello più che o meno. Ti sto chiedendo di fare, perché io ti seguo su Facebook, però chiaramente molta gente ha un'idea distorta di quello che sta accadendo a Cuba, e ecco perché ci tenevo la tua testimonianza, perché ho visto, cioè, quello che hai pubblicato faceva intendere questo. Sì, sì, senz'altro. Allora, faceva intendere questo, e siamo ritornati qui. Vorrei fare un esempio, forse sì. L'hai letto, l'ho scritto in realtà anche. Cioè, l'esempio emblematico di quando siamo andati al centro Finlay, che è il centro che ha fatto i vaccini, questo qui Soberana, e c'erano tipo 700 circa ricercatori, scienziati che lavorano lì. A noi ci hanno accolto un centinaio di loro, e la risposta che è stata data a quello, al perché c'è la necessità del socialismo anche lì reale, ci raccontava questo Vincente, che è uno dei, diciamo, capofila di questa di questo laboratorio, di questo istituto. Diceva che lui è nato più di 65 anni, cioè è nato prima della rivoluzione, è nato in una famiglia povera, e sarebbe rimasto, secondo lui, avrebbe continuato comunque, sarebbe rimasto senza forse istruzione, senza la possibilità. Invece grazie a quella rivoluzione lui è riuscito a studiare, è riuscito a fare ricerca, ci raccontava come lui è un chimico negli anni 80 ci fu questa grave epidemia di meningite B e C che uccideva i bambini, non c'era ancora, c'era solo per la B e non per la C, non c'era questo vaccino e a Cuba si ritrovavano i genitori con dei bambini che erano sani e dopo 2 ore morivano, certo, di meningite. Dunque hanno fatto con questa ricerca, sono riusciti a fare questo vaccino per la meningite B e C e da lì intanto c'è una fiducia nella scienza che anche Fidel all'epoca e tutta la rivoluzione ha veramente puntato tanto sull'analfabetismo, sulla cultura, sulla ricerca e sono andati avanti ed è per questo diceva anche che c'è stata che è stato accolto anche Soberana, anche questo vaccino che hanno fatto loro con una fiducia con la memoria di quello che era successo negli anni 80 e lui dice da lì in poi era nata la sua prima figlia, da lì in poi lui si è dedicato tutto a questa parte scientifica e ringrazia in questo caso il socialismo, dice perché senza quello noi non saremmo qua e ora stanno infatti puntando tutto su quello. Sicuramente questo qui è un ti ringrazio dell'intervista che ci hai rilasciato. Oggi siamo qui al Festival del Libro, sì, del Working Class. Queste, ormai quante edizioni ci sono state? Allora, questa è la quarta edizione, questa qui si chiama Senza chiedere permesso, sì, perché il senso è questo, che le istituzioni, è vero che già diciamo i solidali della ex GKN insieme a operai e operai, ex operai e operai, hanno messo a punto quelle che sono delle leggi sia a livello nazionale, ci ricordiamo anche la famosa Orlando Todde contro le localizzazioni che nasce comunque da qui, poi è stata annacquata, però è una legge nazionale e più la legge invece regionale per i consorzi industriali. Queste leggi, nonostante siano state messe a punto, non sono state applicate qui, dunque noi andiamo avanti, noi come solidali e la ex GKN andiamo avanti con quello che è il crowdfunding, con quello che è comunque l'azionariato popolare, per cercare di mettere in piedi quella che è una riconversione nella direzione di una transizione ecologica senza chiedere il permesso alle istituzioni, certo, senza aspettare loro. E la cosa importante, così come c'è una grande tradizione qui a Firenze in particolare di quelle che sono le società di mutuo soccorso, no? In quella stessa, diciamo, in quello stesso tragitto, in quello stesso percorso, la società operaia mutuo soccorso Insorgiamo, ricordiamo, certo, per chi non lo sa, che anche il motto che veniva utilizzato dai partigiani per liberarsi dal nazifascismo, con quella stessa visione il festival dice che anche l'operaio non è che deve essere abbrutito, lavorare ore e ore, invece che la cultura è fondamentale, è importante ed è per questo che è importante far parlare di prima persona quelli che sono gli operai e le operaie, così come succede qui da 4 anni su questo festival e continuerà a succedere, a andare avanti, sicuramente ci sarà la quinta edizione e noi o saremo qui o da un'altra parte, ma continuerà. C'è tanta gente, è un successo, ormai sono, sì, tanti anni, siamo molto contenti di essere qui e ti ringrazio per il tuo contributo, Antonella, ti seguiamo e siamo sempre con te, insorgiamo insieme. Insorgiamo. Hola Kike. Intervista te la faccio in italiano, poi capisci un po', no? Allora, siamo qui al Festival della Working Class, dei lavoratori della Working Class, ok? Festa del libro di lavoratori. Tu sei molto importante, i libri che tu hai scritto sono per molti marxisti un punto di riferimento, ok? Cosa ci puoi raccontare di quello che tu hai scritto, della storia e di cosa hai percepito, cosa hai capito di questa manifestazione qui a Firenze? Bueno, yo creo que este encuentro de la literatura working class va en la misma dirección que las intenciones de mi novela. Yo escribí la novela como una forma de rememorar mi pasado militante, mi juventud como activista del trotskismo y al mismo tiempo el descubrimiento del rock, del alcohol, del sexo. Fue todo un solo movimiento, pero al mismo tiempo como una autocrítica a esos mismos sectores de los que yo participé y participo, que tendemos a buscar las soluciones en algún pasado. Puede ser 1917, puede ser 1959, puede ser 1968, depende cuál sea tu corriente política, buscamos las respuestas a los problemas que el capital nos propone en el pasado. Y el comunismo siempre fue una fuerza de futuro, Lenin decía, el poder de los soviets más electricidad en 1917, eso implicaba mirar hacia adelante, tenemos que recuperar como colectivo, la clase obrera y los comunistas de toda la Haya, una idea de futuro, y creo que en ese sentido la literatura nos puede ayudar fuertemente porque es una fuerza de la imaginación. Questo festival vuole mandare un messaggio che la classe operaia non deve solo subire, ma deve essere istruita, deve conoscere, avere conoscenza per poter fare una lotta che sia efficace per emancipare la classe operaia. Questo cosa ne pensi su questo argomento? Io credo che è fondamentale che retomemos una idea che teníamos, che la fuimos perdiendo, però che stava, della classe trabajadora e delle organizzazioni della classe trabajadora, le organizzazioni della classe obrera come gruppi che erano gruppi di lucha social, però anche di istruzione culturale. Yo creo que tenemos que volver a un viejo llamado de Gramsci a las juventudes comunistas, que era instruyanse porque lo vamos a necesitar mucha inteligencia, júntense porque vamos a necesitar mucha organización y emocionense porque vamos a necesitar mucho coraje. Me parece que tenemos que volver sobre esos pasos. Nosotros en el sindicato del que yo soy parte, el sindicato de los obreros del subterráneo, de la metropolitana, hacemos un fuerte trabajo cultural y me siento hermanado con lo que hacen acá los compañeros de la fábrica recuperada. Grazie mille. Por favor, ustedes. Grazie, camarada. Hey, muchas gracias. Grazie a te. Traduciamo un attimo per chi non parla lo spagnolo. Con l'aiuto di Daniel siamo riusciti, insomma, a tradurre quello che Kiki ha detto. Io credo che questo incontro della letteratura working class vada nella stessa direzione delle intenzioni dei miei romanzi. Io ho scritto il romanzo come un modo di raccontare il mio passato come militante, la mia giovinezza come attivista del trotskismo e allo stesso tempo la scoperta dei ladri, dell'alcol, del sesso, fa parte sempre dello stesso movimento. Ma nel contempo è come un'autocritica a quel settore dove ho partecipato e partecipo ancora. Noi proviamo a trovare delle soluzioni che le cerchiamo nel 17, nel 59, nel 68, tutto dipende da qual è la tua corrente politica. Cerchiamo delle risposte ai problemi che il capitale ci porta dal passato. Il comunismo è sempre stato una forza per il futuro. Come diceva Lenin, il potere è dei saggi. Nel 1917 questo implica guardare avanti. Dobbiamo recuperare come collettivo la classe operaia e i comunisti, e credo che il senso della letteratura può aiutare decisamente, perché è una forza dell'immaginazione. Credo che sia fondamentale che riprendiamo le idee di una volta che col tempo si sono perse. Ma erano soprattutto l'organizzazione delle classi operaie come gruppi di lotta sociale e anche di intrusione culturale. Dobbiamo tornare al richiamo di Gramsci e ai giovani comunisti. Studiate e preparatevi perché ne avremo bisogno. Restiamo assieme con coraggio. Credo che dobbiamo tornare su queste orme. Io, come rappresentante di un'organizzazione sindacale, sono contento di quello che state facendo qui. Ciao Dario, siamo qua al Festival della letteratura della working class, questa è la quarta edizione se non mi sbaglio, noi siamo già venuti come Pane e Rose, come radio, bella anche quest'anno, tanta gente, personaggi, scrittori importanti, prima ho intervistato Kike, c'è Ignazio Taibo, insomma un livello non così, un livello molto alto, devo dire la verità. Cosa ci puoi dire? Questa è la festa della letteratura, l'importanza che sta assumendo questa festa della letteratura per me come operaio. Io penso che il lavoro che state facendo di portare delle idee all'interno della working class che emancipano a livello comunque culturale la classe operaia, perché è importante per ottenere i risultati. Cosa ci puoi raccontare di questo festival? Adesso ci sarà la manifestazione tra un po'. Questo festival con la sua quarta edizione purtroppo misura il tempo in cui noi siamo bloccati. È un tempo di accelerazione catastrofica da una parte, di accelerazione della crisi bellica mondiale, del genocidio, della crisi energetica, e dall'altro lato un tempo immobile dove alle lotte operaie è lasciato semplicemente la scelta se e come evaporare. Per cui quando viene chiusa una fabbrica, quando c'è una vertenza, è già per scontato che tra i tavoli che si aprono, le promesse eccetera, passeranno anni, e sono anni sempre più anacronistici in un momento in cui non sai nemmeno quello che succederà la prossima settimana. E costruire l'immaginario collettivo del passato, del presente e del futuro ci aiuta a superare questo tempo e questa dicotomia. Di fatto è il nostro immaginario, la nostra capacità di narrazione e memoria che rende le lotte immortali e quindi certo. che riescono a sopravvivere al tempo. Quindi noi in questa enorme sfida per sopravvivere al tempo, perché 4 anni e mezzo di presidio permanente sono un tentativo di sopravvivere a questo non tempo e logoramento, siamo inventati questo festival. Il suo successo ci ha sempre interrogato sin dall'inizio, cioè ci siamo chiesti se fondamentalmente non si scarichi qua una voglia di alternativa che ovviamente non può essere interpretata da un festival di letteratura, ma evidentemente la richiesta è che questa alternativa sia creativa, di vita, piena, non tecnica, non fossilizzata, non burocratica, ma che effettivamente rimetta al centro le vite per come sono. C'è un bisogno di narrarsi, di riprendere la parola, e questo abbiamo visto come spaventi la controparte sociale, i padroni, il padronato, gli imprenditori, chiamateli come volete, in una maniera veramente importante. Hanno paura che possano venire fuori delle idee che poi possono cambiare la società, possono cambiare la narrazione che oggi c'è ovunque, no? Il fatto che bisogna rassegnarsi al fatto che esiste il padrone, che esiste l'operaio, che le fabbriche vanno chiuse, sta a te cercarti un altro posto di lavoro, l'alternativa non ci deve essere. Ma se ci pensiamo, noi quello che ripetiamo sempre è che la Thatcher ci ha sconfitti in maniera anche importante, ma fondamentalmente è stato un lavoro tale di immaginario, di narrativa, per cui io sfido oggi, anche tra le classi popolari meno politicizzate, a non dire che la Thatcher era una merda e che i minatori ci avevano ragione. Certo. Ecco, questa capacità di dare ragione alle lotte nell'immaginario fa sì che le lotte diventino inattaccabili, nel senso che le puoi sconfiggere ma trovano sempre il modo di riscavare come talpa, e questo è abbastanza importante. Non lo fa solo la letteratura evidentemente, ma sicuramente la letteratura è uno degli strumenti, anche perché si associa alla capacità di riprendere la parola e quindi di scriversi, di raccontarsi e di narrare. Se ci pensiamo, lo stesso enorme movimento che abbiamo visto sulla Palestina e che io mi auguro rivedremo è il frutto anche di un immaginario, perché noi sappiamo e sapevamo quali sono i rapporti di forza devastanti che abbiamo di fronte, e quello di Gaza non sappiamo nemmeno più che cosa è rimasto, e chissà quanto tempo ci vorrà perché torni ad essere un luogo di vita. Anche un domani in una società migliore ci metteremo anni per ritornare a un elemento di normalità, eppure le bandiere erano su tutti i balconi, erano in tutte le manifestazioni, perché è diventata nell'immaginario la bandiera dell'ingiustizia che io subisco, dell'arbitrio eccetera. Le lotte devono farsi bandiera, e la letteratura, come il teatro, come l'arte, sono uno degli strumenti per farle. Del resto, il movimento operaio ha sempre avuto i propri scrittori, i propri poeti, i propri teatri, la propria letteratura, i propri circoli ricreativi culturali. E il problema è che a un certo punto siamo noi che abbiamo espulso questi strumenti dalla cassetta degli attrezzi sindacale. Ma il sindacato deve essere universalistico, radicale, ed essere universalistico vuol dire avere un forte senso della vita, che è quella che poi sacrifichiamo tutti i giorni quando scioperiamo, quando lottiamo per raggiungere un futuro migliore. Ecco, grazie Dario, sicuramente questo festival farà questo, è un modo per andare avanti, per rimanere immortali. Speriamo che si risolve il problema della GKN, poi oggi parliamo di festa della letteratura, ma sicuramente noi auguriamo alla GKN di diventare non solo immortale questa battaglia, di diventare che i nostri figli la possono studiare, sperando che si riesca a risolvere il problema. Certamente è stato importantissimo per la classe operaia italiana quello che è successo qui, rimarrà sempre nella storia, questo festival lo ricorda, speriamo che i nostri figli la studiano come una grande vittoria. Ci proviamo fino alla fine. Ok, grazie. I 20 anni bui a volte capitano nella storia, ma c'è un giorno in cui finiscono, e io non so se questo è il giorno. Io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme. Nelle piazze